Presidente qui, dal trono del Presidente. E cosa riprende? Vabbè, già sento di mi faccio un riposino, tanto. Ma si può parlare tranquillamente, ma non qua. No, ma non ti preoccupare, già quello devo riscendere le due della prima storia, tanto è handicappato, capito? Adesso io lo so, io tutto qua. Io so il tre della Ave Maria, che a me è importante di conoscere tutti e tre. Nome, cognome, via e indirizzo. Già. E questo però non è un bene. Mi sufficienti. Stai tranquillo che come ti risponde. Io non sono in persona, quando faccio le promesse le mantengo, no? Uno va lassù, tranquillo. Tranquillo, ci sono le persone giuste che ci pensano, già, lasciali scorreggiare. Quello che mi fa piacere a me lo sai che è già. Le persone bisogna buttarle al portafoglio. Questo non è la soluzione, tanto hanno macchine, non è tutto. Ah, vi torniamo per le strade. Sai che vi faccia la voglia di fare le cose sbagliate. Quello ci vuole. Tanto in macchina dovete uscire. A uno in culo che la faccio mettere. Capito che è quello che vi voglio dire, idiota. Culo e targa di macchina, modello, giorno che l'avete comprata, tutto ciò, cazzi vostri. Poi vediamo. Poi vediamo. Mi fa piacere quando fate così. Mi fa veramente piacere. Così quando vi farò del male, posso dire veramente di essere soddisfatto. Dai, non pure di più. Ho conosciuto a lì, no? Vieni avanti. Dai, sì, quello che ti ho promesso. Tre siete, due nani e uno guatto. Dai, ci sono lì. Tutti dimmi tu. Ciao, già, ci sentiamo. Sentiamo magari in sì. Questi non sono mai emersi dalla società, il fallito, invece morto di fame, io guardo anche la parte di persona e tutte le cose che si interrogano. E allora guarda, mi fanno solo pena. Così almeno non c'è nessuno.